es un país que viene para alimentar a más de 200 millones de habitantes. La plataforma. La plataforma. No conciliamos con el Estado. La plataforma. Allora mondo, questa è la sesta puntata di Tracce Resistenti, musica info internazionaliste su Radio Default, per gli amici a radio. Oggi si parla di Messico, Guinea Conakry e Italia, verso la mobilitazione del 12-19 ottobre. In sottofondo è già partita la traccia della Plataforma, un collettivo militante anticapitalista, collaborazione fra Argentina e Spagna, prodotto un sacco di cose belle, tra cui molte basi, e questo remix di Enemy Number One, Trabajo, Dignità, Stato Sociale. Cambio social, salud, educación, trabajo, luchar. Cambio social, salud, educación, trabajo. Magnetic field, get charged. Pelear por el cambio social, movimiento unidad popular. El capitalismo ha fracasado. Fracasó porque no puede alimentar a la sociedad. ¡Aníbal León! ¡Aníbal León! ¡Aníbal León! Pas les rêves. Tratando de que la gente se dé cuenta de los derechos usurpados que los tiene que reclamar. Salud, educación, trabajo, luchar, trabajo, cambio social. Salud, educación, trabajo, luchar, trabajo, cambio social. Salud, educación, trabajo, luchar, trabajo, cambio social. Salud, educación. No, nada más, así que gracias por haber venido ustedes también. Y bueno, que por lo menos que nos estén escuchando. Bueno, ¿eh? Gracias. E adesso cominciamo con un po' di aggiornamenti sulla Guinea Conakry. Aggiornamenti, avevo già parlato la situazione di questa nazione del West Africa nella puntata numero 4, che potete trovare cercando Tracce Resistenti su archive.org. Beh sì, la Guinea è ancora sotto elezioni legislative, da anni. Le elezioni vengono infatti continuamente rimandate. Durante la manifestazione dell'opposizione tenutasi il 13 maggio 2013 sono morti 6 ragazzi. Leggiamo da un report di guinea.nomads.indivia.net come una settimana dopo i funerali dei ragazzi morti in manifestazione un militare a Bambeto viene massacrato di botte e derubato dalle armi. Negli ultimi 2 anni il regime di Alpha Condé si è reso responsabile dell'assassinio di almeno 30 manifestanti residenti nell'asse Amjallay-Simenteri e Ratoma, quindi la prima periferia della città. Dietro a questi assassini c'è il tentativo di confinare tutte le manifestazioni dell'opposizione democratica. C'è l'intento specifico del presidente Condé di scoraggiare e spaventare i giovani che, stanchi di anni di malgoverno e dittatura, lottano per la democrazia. Ma contemporaneamente non è da sottovalutare che l'azione dei partiti di opposizione, che fomentano i gruppi di appartenenza, ha un ruolo determinante nel creare caos. La speranza di vedere cadere Alfa Condé è in questo caso principalmente basata sulla voglia da parte dell'opposizione di riprendersi le loro vecchie poltrone di ministri. Il 18 luglio si parla in rete dei 150 morti più dispersi negli scontri etnici tra i Malinché e un'altra etnia. Una cosa che fa riflettere è che i guineani, nonostante questa situazione di delirio del loro paese, non ottengono direttamente asilo politico in Europa. Devono provare di aver subito persecuzioni personali a sfondo politico, visto che non viene riconosciuta la situazione di guerra civile ad un paese che conta 150 morti negli ultimi 3 mesi. Nel 2014, come Nomads Guinée, torniamo in Guinea Conakry e supportiamo il progetto dell'associazione No Profit Notre Monde di realizzare un cinema ambulante che porti il cinema dove non arriva, che significa anche la periferia, visto che i cinema stanno chiudendo, e porterà il topic dell'emigrazione dall'Africa. C'è da pensare che in Guinea il 90% delle persone crede ancora che qui ci sia l'American Dream, mentre il cinema ambulante porta il punto di vista della lotta migranti e dei refugees camp. Parallelamente porteremo avanti un progetto iniziato l'anno scorso con un corso di produzione audio-video in cui ci rendiamo sostenitori delle spese e facciamo corsi di formazione ai formatori, in questo caso di aggiornamento ai formatori. Nomads è un progetto completamente autofinanziato, andiamo avanti a eventi e banchetti info. Il prossimo evento è venerdì 20 settembre al COPI di Berlino con un seratone organizzato da Kaometri Records che ha chiamato un sacco di artisti. Musica dalla ambient alla Artec, passando dalla Bouncing Tribe, Itzy, Ego Prince, Oxo Necronauts, Lamatron, Johnny Sideways, Stasma the Jungle Cries, Cerberman, Touch, per una lineup che coprirà dall'industrial alla breakcore, techno, ma anche worstep, negrostep, video dei Sans Culottes, da qui da Radio Default a Guidobaldi Strasse Genzano in provincia di Berlino, potete arrivare in bici. E adesso ci sentiamo Olga Burner, un MC di Amburgo, con la canzone Si se puede, che è la storia di un'immigrata messicana che fa la donna di pulizia nel primo mondo. La scadenza del visto, la conseguente perdita del lavoro, il crollo dei pochi diritti che le erano stati concessi. Insomma, storia triste, ma come dice il ritornello, vogliamo solo una vita felice e si se puede. Se non riusciamo a dare giochi ai nostri bambini, possiamo cambiare come vanno le cose? Sì, se puede. Ich möchte euch gerne eine kurze Geschichte erzählen. Leider hört man über sowas fast nichts in den Medien. Denn es geht nicht um Promis und ihr ach so wichtiges Leben. Sieht man Fernsehen, scheint es keine untere Schicht zu geben. Es geht um weiße Westen mit schmutzigen Kragen. Ich will euch beibringen, immer den Nutzen zu fragen. Stellt euch Manhattan vor und fragt euch, wer putzt die Etagen? Stellt euch die Manager vor, ich hätte Lust sie zu fragen. Kennt ihr Maria, die eure Schreibtische putzt? Sie wohnen in Treppenhäusern, befreit die Scheiben von Schmutz. Sie fragt nicht nach längeren Pausen und besseren Löhnen. Aus Angst, der Vorarbeiter ruft die aus in der Behörde. Sie ist aus Mexiko, die Gegend hat den Tod spekuliert. Sie flog über die Grenze, suchte ihren Brotwerb hier. Sie war schon immer arm, hatte nie viel besessen. Schafft 10 Stunden jede Nacht, trotzdem reicht sie fürs Essen. Kennt jetzt die dunkle Seite vom American Dream. Für Millionäre jobben und dabei Pennies verdienen. Sie war einer der Verlierer im Spiel des Lebens. Wusste, in jedem Hochhaus hier müsste es so viele geben. Von uns, ohne jegliches Gefühl zu leben. Kann man jemals was dran ändern? Si se puede, si se puede. Wir wollen noch ein glückliches Leben. Si se puede, uns etwas von unserem Stolz zurücknehmen. Wir können unseren Kindern nicht mal etwas Spielzeug geben. Kann man daran etwas ändern? Geschichte in Quelle. Sie drängen uns aus echten Jobs, das heißt Prekarität. Wir sollen glauben, dass ein Streik da im Leben nicht geht. Wir sollen nicht bemerken, wer denn wirklich gegen uns steht. Doch wie ein schlauer Mann sagt, die Wahrheit ist eben konkret. Unsere Chefs malen uns davon kein Bilderbuch. Man muss sich selbst informieren, wenn man Vorbilder sucht. Maria hatte weniger als nichts auf der Bank. Keine Green Card, wie sie in Amiland der Richter verlangt. Deswegen konnte sie nicht sagen, war die Schicht mal zu lang. Was, wenn sie den Job verliert? Ihre Geschwister sind krank. Aber auch so reicht das Geld nicht für eine Operation. Auch wenn sie schon längst ihre Gesundheit opfert für Lohn. Eines Tages stand Maria über ihrem Wesen gebückt. Ihr Rücken schmerzt so stark, sie hält die Tränen zurück. Da hört sie auf der Straße stockenden Lärm. Sie spitzt die Ohren. Das war bestimmt noch einen Block entfernt. Die erste Minute war noch gar nicht verständlich. Da waren das nicht Worte in Spanisch und Englisch. Sie schaut aus dem Fenster, da stehen Leute wie sie. Mit Schürze und Besen, wirklich Leute wie sie. Noch nie sah sie auf einmal so viele Kollegen. Und ihr Herz sang wie die Masse, sie se puede. Kurze Zeit später, anderes Land, kaum andere Zeit. Inzwischen gibt's in Deutschland wieder Zwangsarbeit. Mit Hartz IV nehmen sie beides weg, Butter und Brot. Und wer noch Arbeit hat, der kriegt Druck auf den Lohn. Und leider ist es gerade mit der Gegenwehr trotz der stärksten Gewerkschaften hier ähnlich schwer. Denn statt zu kämpfen, damit es uns besser geht, klammern sich Gewerkschaftsführer an die SPD. Ich weiß, das wird ein sehr beschwerliches Stück. Doch wir holen uns irgendwann IGM und Verdi zurück. Wenn Opel dann streikt, dann bleibt es nicht mehr allein. Dann wird der Wind sich hier drehen, da kann man sicher sein. Und dann stehen Facharbeiter gemeinsam mit Callcenter Agents auf der Straße und sagen, wir wollen nicht mehr reden, ihr habt uns alle lang genug verarscht. Wir haben genug von Stellenabbau, genug von Hart. Dann gibt's Superstau, statt Deutschland sucht den Superstar. Dann glauben wir keinem Politiker mehr seinen guten Rat. Die ganzen Parteien haben jahrelang so viel geredet. Jetzt reden wir mit deiner Stimme. Si se puede, si se puede. Wir wollen noch ein glückliches Leben. Si se puede, uns etwas von unserem Stolz zurücknehmen. Wir können unseren Kindern nicht mal etwas Spielzeug geben. Kann man daran etwas ändern? Si se puede, si se puede. Wir wollen auch ein glückliches Leben. Si se puede, uns etwas von unserem Stolz zurücknehmen. Wir können unseren Kindern nicht mal etwas Spielzeug geben. Kann man daran etwas ändern? Si se puede. E adesso eccoci, parentesi sul Messico. Leggo da mexico.nomads.indivia.net. Domenica 1 settembre, durante le mobilitazioni contro la riforma educativa e la presentazione del primo rapporto del governo illegittimo di Enrique Peña Nieto, a Città del Messico sono state arrestate arbitrariamente 16 persone, alcune delle quali fanno parte dei collettivi libertari e di comunicazione alternativa. Per neutralizzare le azioni di solidarietà per i detenuti, la strategia del governo del Distretto Federale ha sparpagliato questi ultimi in 4 diversi ministeri pubblici, situati lontani dal centro della città dove hanno avuto luogo gli arresti, rendendo così più complicato per i compagni e le compagne ricevere consulenza legale. I reati di cui sono accusati sono diversi: attacchi contro la pace pubblica, utilizzo di sostanze tossiche, incendio, inondazione e violenza estrema, resistenza all'arresto, possesso di oggetti atti ad attaccare, impedimento del legittimo esercizio dell'autorità e oltraggio all'autorità. Esistono video e foto che dimostrano che gli arresti sono avvenuti senza che ci fosse flagranza di delitto e che tutte le accuse che vengono mosse sono chiaramente false. Dopo le giornate del 1 dicembre 2012 e del 10 giugno 2013, caratterizzate da un gran numero di arresti arbitrari, gli avvenimenti del 1 settembre confermano che è iniziata una nuova battaglia da parte di Enrique Peña Nieto e del governo di Città del Messico per eliminare il diritto all'informazione e alla libertà di espressione, in cui i media liberi e giornalisti indipendenti vengono presi di mira come fossero criminali. E visto che anche in Cile sono 2 anni che insorgono proteste per salvare la scuola pubblica, ci sentiamo Ana Tijú, Shock. Monólogos, tus discursos sin coloros. No ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro. Marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. No países, solo corporaciones. ¿Quién tiene más, más, más acciones? Trozos gordos, poderosos. Decisiones por muy pocos. Constitución pinochetista. Derecho pues de hilado fascista. Golpista disfrazado de un indulto elitista. Cae la gota, cae la bolsa. la toma, se toma la máquina, rota la calle, no calle, la calle se raya, la calle no calle, debate que está ahí, ya todo lo quitan, todo lo venden, todo se lucra, la vida, la muerte, todo es negocio, bajo tu tonto semilla, Pascuala, me todo ese borde. Venenos tus monólogos, tus discursos sin coloros, no ves que no estamos solos, millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción, que basta de robo, tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro, no, la hora sonó, la hora sonó, no permitiremos más, más tu doctrina del shock, la hora sonó, la hora sonó, la hora sonó, la hora sonó, la hora sonó, la hora sonó, la hora sonó, la hora sonó, la hora sonó. Queremos erradicar que la educación sea un negocio, que la educación pase a ser un derecho social. Este movimiento social de cada día es más grande. No solo es algo de movilizarse, salir a las calles a protestar, sino también de crear compromiso y conciencia entre todos los compañeros que participan. Golpe a golpe, verso a verso, con las ganas y el aliento, con cenizas, con el fuego del presente, con recuerdo, con certeza y con desgarro, con el objetivo claro, con memoria y con la historia, el futuro es ahora. Todo este tubo de ensayo, todo este laboratorio que a diario, todo este fallo, todo este económico modelo condenado de dinosaurio, todo se criminal. Todo se justifica en la noticia, todo se quita, todo se pisa, todo se ficha y clasifica. Pero tu política y tu táctica, tu típica risa y ética, tu comunicado manipulado, ¿cuántos fueron los callados? Pago guanacos y lumas, pago guanacos y tunas, pago guanacos nos suman, ¿cuántos fueron los que se robaron las fortunas? Tus monólogos, tus discursos sin coloros, no ves que no estamos solos, millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción, que basta de robo, tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro, no, la hora sonó, la hora sonó, no permitiremos más, más tu doctrina del shock, la hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó, la hora sonó, la hora sonó, la hora sonó. E continuiamo leggendo un articolo di Regeneration Radio. Nella mattinata del 6 settembre sono stati liberati sotto cauzione 6 degli ultimi 7 arrestati del 1 settembre. Circa un centinaio di persone hanno aspettato la loro uscita in un ambiente festivo, gridando slogan per la loro libertà. La liberazione di tutti e tutte è stata possibile grazie alla pressione politica, le mobilitazioni e l'attività incredibile di raccolta fondi di tutti quelli e tutte quelle che sono state solidali per la libertà dei detenuti del 1 settembre. Per la liberazione degli ultimi 6 arrestati è stata pagata una coazione enorme tra i 7.200 e i 7.800 euro a testa. Si è raccolta questa grossa cifra grazie alla grande solidarietà che c'è stata attorno a questo nuovo episodio di repressione. Vi chiediamo di diffondere il più possibile la notizia sulla situazione e chiediamo ancora la vostra solidarietà in qualsiasi modo è possibile, perché ricordate che adesso abbiamo molti debiti da ripagare e invitiamo a continuare ad appoggiare economicamente sul conto che trovate, ad esempio, sul sito di mexico.nomads.endivia.net. E ci sentiamo adesso in Lirica Podrida con Montaje Bombas, e fa parte tra le altre di un album hip hop libertario, Lirica Incendiaria, uscito nel 2010 a Città del Messico, che è una collaborazione di 4 tracce tra gli Artefacto Incendiario e Lirica Podrida. Loro li trovate su SoundCloud. E questa è una canzone in appoggio ai compagni cileni che sono stati più che arrestati, sequestrati dal governo cileno nel 2010, quando diversi centri sociali sono stati perquisiti a Santiago del Cile, avviando l'operazione Caso Bombe, con il quale lo Stato cercava di ricriminalizzare il movimento anarchico in Cile, sostenendo la paternità degli attentati al movimento sociale senza nessuna prova ricollegabile. Dopo questa incursione del 2010 sono stati arrestati e trattati con la legge antiterrorismo 15 attivisti che hanno fatto durante l'incarceramento preventivo più di 50 giorni di sciopero della fame per protestare contro il vero e proprio sequestro di Stato che il governo cileno ha attuato. Nel 2012, dopo diversi trucchi e inganni della magistratura e del Ministero dell'Interno, che hanno cercato di ritardare l'ammissione e la discussione di un errore giudiziario, il 1 giugno 2012 è stata letta la sentenza di totale assoluzione per gli ultimi 6 imputati. Dopo più di 6 mesi di processo inquisitorio, che è stato il più lungo della storia cilena, si è concluso, il tutto a favore degli imputati. Quindi per una volta ce la godiamo, lirica podrida, montaje bombas. Yeah, yeah. Lírica podrida. Sí. Esto no es un caso, es un montaje. Apoya a los compas en Chile. Libertad pa' caso bomba. De México a Chile se forja insurrección. Exaltando apoyo mutuo, lucha y corazón. Respaldo y hermandad, rebelde actividad. Esta rol es por ustedes que luchan desde allá. Nosotros desde acá forjamos batalla. Ustedes no están solos, con rimas en lucha. Mi pluma va soltando versos insurrectos, acciones y afectos, actividad y textos sobre la realidad. Solidaridad con ustedes mis compás, jodiendo al sistema. No se rindan hermanas, no se rindan mis compás. Esta guerra ha empezado y la vamos a ganar. Y muchas bombas más en esta tierra estallarán. La noche nuestra amiga, bomba al sistema. De todo corazón ahora te vengo a cantar a los 14 compañeros del montaje bombas. Una disculpa, quise decir caso bombas. A mí me asombra cómo hay tanta falsedad, pero no importa que hay más solidaridad. Somos hermanas, juntos vamos a luchar. El apoyo es para allá, desde acá de México. Animo a los compas en la cárcel de Santiago. Un saludo libertario con el puño bien arriba. Mil puños en la cara de Alejandro Peña. Con sus prisiones nunca podrán. Solo la muerte nos detendrá. La libertad se acerca, el teatro se caerá. Y su montaje completito fracasará. Abrazos y saludos con mucho ánimo, compas. Este mundo cruel se debe de cambiar. Y para eso contamos con ustedes. Nos vemos en la calle, frente a frente, para luchar siempre contra el capital. Todos los sueños para hacerlos realidad. Omar Hermosilla, Felipe Guerra, Cristian Cancino, Candelaria Cortés Monroy, Francisco Solar, Mónica Caballero, Carlos Rivero, Pablo Morales, Camilo Pérez, Iván Goldenberg, Andrea Ursúa, Diego Morales, Vinicio Aguilera, Rodolfo Retamales. Para ellos esta canción y para todos los que luchan por la libertad. Para ellas esta canción y para todas las que luchan por la libertad. Ed eccoci, verso la settimana di mobilitazioni contro la crisi del 12-19 ottobre 2013. Anche nel campeggio di questo luglio sul Monte Amiata per la difesa del territorio e per riappropriarsi dei beni comuni, anche là si è rilanciata una settimana di mobilitazione comune che si aprirà il 12 ottobre con azioni diffuse in tutti i territori e che avverranno in maniera coordinata in una cornice comunicativa comune. Non più manifestazioni come atti isolati, ma come elementi di un processo continuo e corale. Quindi vi sparo L'atto isolato, una traccia dell'album autoprodotto Dove vola l'avvoltoio, 2006, La cattiveria crew. Ne detengo il gene, il germe che gene, il seme che germina. Rigetto il regime e le regine che genera. Dall'ancella più acerrima fino alla cella più gelida. Dai patti di Ginevra fino ai patti di Genova. Cala il gelo, qua il cielo mescola grigio e viola. La folla aspetta il capo di stato, qualcuno si annoia. Qualcuno aspetta da qualche ora chi per la repubblica per una supplica. Io aspetto che muoia ora, aspetta lui perché oggi è il suo turno. C'è il clima umido, il cielo plumbeo delle giornate d'autunno. Penso, cambio la legge del più forte, mi giro tra i tanti, ogni tanto mi asciugo la fronte. Confuso qui tra mille lingue, mille tinte. Niente falso finto, false piste. Non finge sta lince. Immobile secondo il codice, sfioro col pollice la mia 7,65. Dal 75 che tendo il nervo. Ora è giusto che cada sotto i colpi del mio ferro. Potrei anche sbagliare ma non posso concedermelo. Mi chiedi se ho paura? Io ho paura di chiedermelo. Dirò sì se deciderò. Mi sa che sì a chi non deluderò. A chi quando sparerò, quando sparirò, quando espatrirò. Dirò sì se deciderò. Sì a chi non deluderò. Chi a chi quando sparerò, quando sparirò, quando espatrirò. Ma quale significato dato all'atto isolato? Forse è solo un altro mito, un altro scatto, un altro stato. Forse un altro strato, forse è solo la solo isolato di chi è stato troppo solo su un solo lato. Raggiungo un altro isolato, vivo l'istante distante, prossimo al colpo in corpo, mille domande. Lo faccio forse per una classe che piange, acquista giudizio regnante, che raccoglie lo scettro nel sangue. Io non so mamma. Qua intanto cala la luce, la notte incombe, penso alle bombe di Lucetti contro il duce, contro contro luce. Decido, miro e tiro. Tre colpi di revolver del Bresci su Umberto I. La folla s'ammassa, la massa si schiaccia, la piazza s'accalca, l'arrivo dell'auto, mi alzo e rintraccio la faccia. Ora è pronto il colpo, il corpo è sciolto, sta canna incanta, se canta non manca molto al punto d'incontro. Ricordo tutta la mia vita sino a qui. Il tiro sì, al click dell'ora X è eclissi, non regge più click né la legge di Lynch, ma io tiro sì, so che tiro sì. Dico sì, se deciderò, mi sa che sì, a chi non deluderò, mi sa che chi a chi, quando sparerò, quando sparirò, quando espatrirò, mi sa che dico sì, se deciderò, mi sa che sì, a chi non deluderò, chi a chi, quando sparerò, quando sparirò, quando espatrirò. E proseguiamo dal 12 al 19 ottobre 2013, settimana di mobilitazioni contro la crisi. Il 15 ottobre azioni dislocate nelle città per uno sciopero sociale indetto dall'agenda dei movimenti transnazionali ed è pure il compleanno del GPRV ex Cinema Preneste occupato. Lo sciopero generale poi di venerdì 18 ottobre, che è stato indetto dall'Unione Sindacale di Base, USB, dalla CUB e dalla Confederazione COBAS. A queste tre sigle si è già aggiunta l'USI. Sarà anche la giornata nazionale di iniziativa e di lotta per una moratoria generalizzata degli sfratti e degli sgomberi. Le motivazioni richieste dello sciopero dei sindacati di base sono per il rinnovo dei contratti, l'aumento dei salari e pensioni e la riduzione dell'orario di lavoro, contro le politiche di austerità in Italia e in Europa e contro il governo italiano dalle larghe intese che queste politiche gestisce. Per la scuola e l'istruzione pubbliche, per la sanità e i beni comuni pubblici e per la costruzione di un diverso modello sociale e ambientale, per la nazionalizzazione di imprese in difficoltà o di interesse strategico per il paese, contro la disoccupazione di massa, lo sfruttamento, la precarizzazione del lavoro e il sistema autoritario sempre più esteso nei luoghi di lavoro, che gli accordi Fiat e quello CGIL, CISL e UIL, Confindustria del 31 maggio 2013 hanno formalizzato. Contro le spese militari, le grandi opere e la privatizzazione dello Stato sociale e dei beni comuni, per difendere ed ampliare i diritti sociali dal reddito all'abitare, allo Stato sociale, al diritto al lavoro dignitoso per tutti e tutte. Per la libertà di circolazione e di residenza di migranti e rifugiati, il diritto di cittadinanza per chi nasce in Italia, l'abolizione del legame tra permesso di soggiorno e contratto di lavoro. Per il diritto ad una vera democrazia fondata sulla partecipazione, che rifiuti deleghe autoritarie nei luoghi di lavoro e per una legge democratica sui diritti dei lavoratori e sulla rappresentanza sindacale. Sì, dopo questa ci sta proprio bene Fratelli di Battaglia. Premier Lynch feat. Cuba Cabal, Drawing Dog e Acero Moretti. Le moins connu de France, le plus sensible et le plus souvent sous substance. L'immortel penseur, le seul et l'unique, un narco-branleur, plein de rancœur quand ça pue le fric. Mépris dans les veines, hautain et mutique. Tu veux ma haine, check ma putain musique. Mon esprit est ailleurs, mes doigts sont rongés. Stigmate d'un malheur auquel j'ai déjà songé. Tu peux venir me sonder pour tes élections. Je te donnerai les noms de ceux qu'on aimerait plomber. Continuons à lutter concrètement. La pression augmente dans ma prose comme les doses des traitements. Il y a la mascarade, il y a la vérité. Il y a ceux qui s'évadent sous toutes les modalités. Action, réaction, tout est causalité. Il y a ceux qui s'engagent et ceux qui veulent profiter.

costruire la manifestazione del 19 ottobre né come testimonianza né tantomeno come evento che si esaurisca con la giornata stessa. Quindi arrivare alla manifestazione non attraverso una semplice sommatoria algebrica di organizzazione e soggettività, ma attraverso un progetto aperto e plurale di movimento e di conflitto. Per farvi capire come sta messa l'Italia, ci stanno benissimo i Sud Foundation Crew, che ho pescato da Taranto. Ascoltiamo un pezzo dall'album fresco di uscita del 2013, Rapa Normal Activity, sottotitolo fantastico che è quello che una major non ti farebbe mai ascoltare. La mia banca è indifferente, potete scaricare il loro album dalla rete. Ma tu, che conto hai? Conto limone. Qua è l'inghippo, tu devi fare come a me, ti devi fare il conto cetriolo. E qual è la differenza? Ti spiego che me l'hanno spiegata in banca. Col conto limone la banca ti spreme, il succo se lo prendono loro e le bucce le danno a te. Avevo un conto arancio ma sono rimasto al verde. Quasi più non mangio per colpa di ste merde. Sul tasso di interessi l'ho perso l'interesse. E tutto intorno a me c'è un mondo di promesse. La polizza su vita mi rende più sicuro. Mi sento un troglodita con tre dita nella. Mi dici che il mio tasso non sente l'inflazione, ma forse con il tempo c'è qualche variazione. È logico che dubito di te, io non mi fido. Finisco i soldi subito e manco mi fa il fido. Appena scendo sotto di un euro sui miei conti mi blocchi tutto. Tutto in botto, dormo sotto i ponti. È come se tenessi i miei soldi per favore. Quei soldi lavorati con bestemmie e con sudore. Questa è una rapina, m'ha detto da un cliente. Su questo la mia banca rimane indifferente. Avevo una casetta, adesso non ho niente. La mia banca è indifferente. Volevo la barchetta, ma adesso non ho niente. La mia banca è indifferente. Prosciuga il mio denaro in modo permanente. La mia banca è indifferente. Senza lei non posso far più niente. Sarò mica un deficiente. Rimango sbalordito davanti allo schermo. Più che paradiso a me sembra un inferno. Altro che dovere, non sono cose vere. Hanno messo il potere nelle mani del banchiere. La gente non ci crede, dice sono cose ignote. Il grande sacerdote firma banconote. Per ogni nuova guerra, per ogni nuova strage. Per colpa dei soldi che non esiste pace. Rima dopo rima il messaggio prevale. Togliamo il potere alla banca mondiale. Mettiamo fine a questa cospirazione. Fondiamo un nuovo mondo, un nuovo modo di pensare. Svegliamo questa Italia che fa sogni profondi. Per il vero cambiamento dobbiamo essere pronti. Se non vogliamo scontri, se non vogliamo morti, eliminiamo Equitalia e cancelliamo tutti i conti. Avevo una casetta, adesso non ho niente. La mia banca è indifferente. Volevo la barchetta, ma adesso non ho niente. La mia banca è indifferente. Prosciuga il mio denaro in modo permanente. La mia banca è indifferente. Eppure senza lei non posso far più niente. Sarò mica un deficiente. Vedrai che con il tempo metteranno i microchip. Vedrai che di sti tempi saliranno tutti i trip. Ci han stretto il cappio al collo e questa è la realtà. Barcollo ma non mollo, ma vattene a cagà. I conti con la vita sono molto più importanti. È tutta una salita, non contano i contanti. Piramidi guardone insegnano il destino. In gola c'ho il groppone, si gira l'intestino. Qui vale più la borsa di un sogno di un bambino. Qui sono tutti in corsa, chi vince l'assassino. È alta la mia febbre, datemi un termometro. So già dove che glielo infilerei quel redditometro. Eppure sembra come se la gente si è svegliata, ma solo per andare in bagno a fare una fisciata. C'è quasi assuefazione, paura al cambiamento. Questa è rassegnazione, altro che movimento. Avevo una casetta, adesso non ho niente. La mia banca è indifferente. Volevo la barchetta, ma adesso non ho niente. La mia banca è indifferente. Prosciuga il mio denaro in modo permanente. La mia banca è indifferente. Eppure senza lei non posso far più niente. Sarò mica un deficiente. Avevo una casetta, adesso non ho niente. La mia banca è indifferente. Volevo la barchetta, ma adesso non ho niente. La mia banca è indifferente. Prosciuga il mio denaro in modo permanente. La mia banca è indifferente. Eppure senza lei non posso far più niente. Sarò mica un deficiente. Ma tu, che conto hai? Sui social network si trovano appelli di partecipazione di ogni genere, soprattutto di persone comuni che dichiarano di non collaborare con alcun partito politico, di essere solo cittadini incazzati che vogliono dare una svolta a questo paese con una manifestazione pacifica ad oltranza. Se tutto questo vi sembra ragionevole, ci sarà un'assemblea di movimento sabato 28 settembre alle 11 all'Università La Sapienza di Roma. Tracce resistenti è una playlist non in crescendo di BPM, ma in crescendo di Veleno. E nonostante l'hip hop che amo incita alla rivolta, quello che spero di incitare per questa settimana di mobilitazione di ottobre è il riappropriamento delle nostre vite tramite autogestione, auto-organizzazione e autonomia dal governo. Riprendendo una frase dei Soul Foundation Crew, se non vogliamo scontri, se non vogliamo morti, eliminiamo Equitalia e cancelliamo tutti i conti. Diciamo allora che il prossimo pezzaccio rimane un memorandum per ricordare cosa succede se non vengono dati i diritti al popolo. Sento il rumore di giro di scatto, Roma di notte nell'Iran un fratto, sui figo giorni che nulla di fatto, c'è delicato in fila compatto, un tratto un soffio d'eolo, scopre lo scarlatto come un graffio, crea lo spazio per l'impatto, scacco matto, passo felpato di gatto, quatto dietro, un 4x4, aspetto l'attimo, vanzi col battito all'istante adatto, il nemico ovunque dunque cercalo, se il pensiero calci sputi elettrico, non sovverti letto lessico, mille miscele di rabbia d'amore, coltiva cattiva passione, ma pensa parole che l'azione non porterà il mio nome, dove suona un pianoforte a coda sulla barricata là. Folle già citata, so che avanzerà per miglia. Ogni rima fa da straccio intorno al collo di bottiglia. Traccio un'orbita di fuoco nella notte per miglia. Figlia della collera, al fianco esattamente di chi so che poi non mollerà e confonderà l'oscurità. Ultima colonna in alto come il quattro shot. Show del fuoco pari a scatto. Shot al bando e flirty purple. Tu in piazza fai, noi in piazza farai. Io perché la dignità qua non me la dà un salario. Ultima colonna in alto come il quattro shot. Show del fuoco pari a scatto. Shot al bando e flirty purple. In piazza fai, noi in piazza farai. Ho tanti spirri morti da farli col fiorai. Quando passa sto suono non passi più. Compare, non serve che metti bandiera blu. Mi tuffo uguale. Appena ti alzi dalla sedia, avvicinati al muro. Pare che ti torna in culo la vita che mi hai fatto mancare. Stare soltanto dove non puoi sostare. Oh, fatti i cazzi tuoi e non dirmi che non si può. Allora eccolo. C'è il pensiero sempre contro questo mondo infetto. Pure fermo nel letto, mi pego il pentatron. 5 malattie in una, dillo alla luna che non si cura. Di chi ulule accumula sfortuna. Destinazione inferno qui, generazione Chernobyl. Abbiate dubbi tutti se restate inermi. Frutti senza fermi quando vai. E guarda sempre il cielo quando vai. Che è pieno di high force come le Nike. Qua da infatti ti senti goffo da grande Randy Crawford. Connetti il beat al mic quando non senti il polso. Ultima colonna in alto come quattro shot. Show del fuoco vai a scatto. Shot al back e stretti barbol. Tu in piazza affari, noi in piazza farai. Io perché la dignità qua non me la dà un salario. Ultima colonna in alto come quattro shot. Show del fuoco pari a scatto. Shot al banco e spliff di barbol. Tu in piazza fai, noi in piazza farai. Ho tanti sbirri morti da farmi col fioraio. Ultima colonna squilla al fianco di chi insorge. Norge di rivolte, porge l'altra guancia al bacio della morte. Volte chiusa serrature, chiavi, stelli, sbarre, schedature, barre, magnetiche, tornelli, questa è carne. Non mi scordo chi sta dentro il tuo attendismo come sottotitoline porno. Questo non è rap, è un morbo. Il colpo secchio all'occhio del gigante è un secchio di sangue, siamo Brady P che se ne vanno in tandem. Vai con la tua fast life dalle fai giù sell'estricon. Macchie nere come nelle acque in Messico. Fuori dal dibattito da reddito sull'attico. Crepi nel traffico, testa sul classo. Passo tra le nubi spesse dei CS contro la PSP. TSIS kill the rich lager mess. Ultima colonna in alto come quattro shot. Show del fuoco vai a scatto. Shot al banco e spritti barbol. Tu in piazza fai, noi in piazza farai. Perché la dignità qua non me la dà un salario. Ultima colonna in alto come quattro shot. Show del fuoco vai a scatto. Shot al banco e spritti barbol. Tu in piazza fai, noi in piazza farai. Tanti sbirri morti da farli col fioraio. Io busso e m'insinuo come il serpente, ma da fa la vipera in seno. E questi erano i Serpe in Seno, che fanno un feat con i pugni in tasca, un pezzo dal loro ultimo album Carne, proprio del 2013, ed era Kill the Rich or Die Trying, parte 2. Il loro CD io me lo so comprato, che era ancora caldo di masterizzazione, alla libreria Antigone di San Lorenzo a Via degli Ausoni. Però un assaggetto lo trovate anche online, perché hanno messo 4 tracce in free download. E io vi lascio con una traccia dall'album Vox, Voice of a Person X, del 2012, di Vox di Acadagri, che tra le altre cose partecipa a Esplosione Plastica, la crew romana. Questo album lo trovate in free download su esplosioneplastica.tk e la traccia è On The Road. on the road, sulla stessa strada. On the road, la libertà è nell'aria. On the road, ti racconterò cosa vedo nei miei occhi quando mi addormenterò. On the road, sulla stessa strada. On the road, la libertà è nell'aria. On the road, ti racconterò cosa vedo nei miei occhi quando mi addormenterò. È una raffica di bora che si incontra con il vento del Sahara, tra scirocche e tramontana, allargando gli orizzonti, ogni confine si allontana. Una metropoli di popoli sulla stessa strada. Sotto lo stesso cielo l'odio uccide l'anima, mentre invoca lo straniero per cambiare pagina. Tutti simili tra simili individui, e la paura del diverso che vi rende schiavi incompatibili. Crimini che sporcano il colore della pelle, ma un unico colore rosso che sporca le bende. Nel nome di Dio ci si massacra come belve, interseca due mondi, oriente e occidente. Immersi nel veleno, l'uguaglianza, la rivolta, è un pazzo che si lancia contro un treno, in attesa di come finiremo. E l'atomica cinese pioggia senza arcobaleno. On the road, sulla stessa strada. On the road, la libertà è nell'aria. On the road, ti racconterò cosa vedo nei miei occhi quando mi addormenterò. On the road, sulla stessa strada. On the road, la libertà è nell'aria. On the road, ti racconterò cosa vedo nei miei occhi quando mi addormenterò. Sono chiodi nella mente, fissi come su pareti, senti vuoto sotto i piedi, camminando sopra i vetri. Casi intrisi di motivi che sprofondano come radici. Conta quello che non dici per far quadrare i conti come in un quadrato bisettrici. Inquadrano cornici che disegnano una barra, chiusi in gabbia spezzali di farfalla. E Roma questa notte chiude le porte in faccia. Vado avanti e non mi fermi, stringi i denti, tra i lamenti, l'odio spinge, falsi argomenti, e ancora scrivo nei miei testi che vado avanti e non mi fermi, stringi i denti, tra i lamenti, l'odio spinge, falsi argomenti, on the road, affari spenti, on the road, sulla stessa strada, on the road, la libertà è nell'aria. On the road, ti racconterò cosa vedo nei miei occhi quando mi addormenterò. On the road, sulla stessa strada. On the road, la libertà è nell'aria. On the road, ti racconterò cosa vedo nei miei occhi quando mi addormenterò. Ciao da Tracce Resistenti, ci vediamo il terzo venerdì di ogni mese su www.radiodefault.it.